Gabriele Linari, ben ritrovato, caro. Pronto, eccoci, ci sono, ciao, ben trovati tutti. Allora, con te per parlare di un nuovo spettacolo, hashtag Loro, che sarà il Cometa Off dal 14 al 17, cioè questa settimana. Allora, Gabriele, raccontaci un po' di cosa si tratta. Allora, si tratta di uno spettacolo che parla di hate speech e di odiatori online, tutti quei leoni da tastiera come vengono definiti oggi, ma soprattutto della pratica proprio dell'odiare online, che è una cosa che riguarda tutti, perché in un modo o nell'altro ci siamo cascati tutti. Da qui il titolo con l'hashtag e soprattutto Loro, che è una delle parole più ricorrenti in questi post e commenti di odio, perché è sempre un loro a cui dare la colpa di qualcosa. E abbiamo lavorato intanto su questo concetto. Siamo partiti da questo, sì. E poi abbiamo elaborato dei testi, alcuni li ho scritti, alcuni hanno scritti proprio i ragazzi che sono in scena. Senti, a proposito di ragazzi in scena, come è composto lo spettacolo? Allora, i ragazzi in scena sono della centro di scuola d'arte Matemu, che è un centro aggregativo, nasce come centro aggregativo e poi diventa scuola d'arte perché ci sono tanti professionisti che offrono lezioni di vario genere a titolo totalmente gratuito, è una bellissima iniziativa del CIES, una onlus che si occupa di educazione. E i ragazzi hanno partecipato negli anni precedenti a un laboratorio teatrale con me e poi abbiamo deciso di buttarci, diciamo, nella mischia e dire ok, abbiamo imparato qualcosa, mettiamolo a frutto, e quindi abbiamo deciso di scrivere questo testo con 8 ragazzi che stanno in scena, sono ragazzi che vanno dai 16 ai 24 anni, quindi un range comunque di giovanissimi. E abbiamo lavorato per l'appunto prima di tutto sui testi per montare uno spettacolo che non ha una linea narrativa vera e propria, ma parla sostanzialmente della condizione dell'odiatore che è lì in bilico tra la noia e la rabbia continuamente, e quindi sono tutte scene che mettono i riflettori nel vero senso della parola su alcune pratiche online che vanno appunto dall'hate speech duro e puro, quello di dire odio questo, odio quest'altro e insulti di vario genere, a pratiche come il bumping, che è il controllare il telefono continuamente la notte fino a perdere il sonno, l'exclusion, che è un giro di commenti che esclude una persona, eccetera, e varie cose che poi le danno nello spettacolo, insomma. Senti, la curiosità è rispetto al loro punto di vista, come vedono questi loro, i tuoi ragazzi che fanno lo spettacolo? Beh, si sono divertiti molto soprattutto a evincere i testi, perché alcuni hanno scritti in modo anche molto poetico, ragionando sui concetti, altri sono stati proprio estratti studiando quello che loro stessi vedevano su Facebook principalmente, e è stato un modo per loro, sempre mi metto questi titoli che poi mi complicano il linguaggio all'infinito, però per i ragazzi in scena è stato un modo anche per capire cosa c'è di sbagliato in questo tipo di atteggiamenti, ovvero il rifiuto a oltranza, e loro ne erano già molto coscienti, però hanno preso una coscienza maggiore e hanno, facendolo, regalano anche agli spettatori, secondo me, e questo è il bel messaggio della cosa, danno la possibilità di vedersi allo specchio e di dire ok, forse da domani qualcosa, se non proprio cambiare, la dobbiamo riragionare. Che secondo me è anche una delle missioni del teatro, della cultura tutta, insomma, senza troppa presunzione, però in un modo o nell'altro l'abbiamo fatto. Senti Gabriele, questi 4 giorni al Cometa Off e poi lo spettacolo che farà? Lo spettacolo farà quello che fanno gli spettacoli, aspetterà, cercherà di capire, perché ha una vita già molto intensa, perché ha debuttato al Cometa Off a giugno scorso, poi siamo stati al festival Scrigni di Fiano Romano, abbiamo fatto una replica al Maxi, al Museo Maxi, a ottobre, e adesso entriamo in cartellone e diciamo che speriamo che venga parecchia gente che parli di questo spettacolo e soprattutto di questi ragazzi pieni di talento e di voglia di fare. Mi preme citare anche il contributo al testo di Marco Andreoli, carissimo amico e grandissimo autore e drammaturgo, che ha seguito un po' di prove e poi ha scritto alcuni testi per noi, appassionandosi, devo dire, anche lui moltissimo al concetto e allo spettacolo, e lo ringrazio. Bene, uno spettacolo quindi che sta circuitando, e in chiusura ti chiedo di ricordare l'appuntamento e poi i vostri riferimenti web. Allora, l'appuntamento è al Teatro Cometa Off da giovedì 14 dicembre a domenica 17, dal giovedì al sabato alle 21, la domenica alle 18. I riferimenti web sono il sito del teatro del Cometa Off, che se credo che sia, adesso sono impreparato, però Cometa Off .it, okay. Comunque cercando teatro Cometa, sì, Off, lì ci sono tutti i riferimenti per le prenotazioni che si fanno anche online, si può fare anche l'acquisto sia di tessera che di biglietto online, oppure cercando il sito lorospettacolo.wordpress.com, dove c'è tutto sul nostro spettacolo, o cercandoci su Facebook, anche sotto Gabriele Linari ci sono tutte le informazioni. Siamo ovunque, ci siamo. Ringrazio anche Mamenduni, nostro ufficio stampa, che per l'appunto ci permette di essere un po' ovunque in questi giorni. Bene. Allora, Gabriele, un abbraccio e a risentirci presto. Grazie mille. Grazie tante. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Ciao.